casa. Chieri se più ti piace, chieri se più ti piace. Dormi fra noi la pace, dormi fra noi la pace. Rieda, rieda un sincero amore. Eccolo qui dal campo, chiedi se più ti piace, chiedi se più ti piace. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amore. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amor, un sincero amor. Della virtù del campo, che in questo sen risplende, che in questo amico, a voi mi rende, fa che ho famiglia ancor, fa che ho famiglia ancor. Amico, a voi mi rende, fa che ho famiglia ancor, fa che ho famiglia ancor. Al campo, lo vida al campo. Chiedi se più ti piace, chiedi se più ti piace. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amor. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amor. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amor. Dormi fra noi la pace, rieda un sincero amor, un sincero.